palco mi schieregola da Termini per la folla che con le mani in aria l'artista è da Africa bambata a Curtis Blow. Lui non ho lo stile che ha dato vita al mio show. Con DJ Kulak e Grandmaster Flash continuo sul set, the music is back. Lari lari, I like a party. Interessi diversi che diventano uguali. Fat beat stratosferici, culi che si muovono a tempo e insieme microfoni. L'adrenalina sale riscaldata da ciò. Rock, rock, rock, rock on. Flyer sparsi nei negozi stilosi. Incontrarsi per passare pomeriggi come in estasi. Chi con una bombola ti ritrae sul muro e chi se lena a ballare sul pavimento più duro. E slide di show, e slide that show. Ogni pedina mossa al posto giusto. La gente sbuca da ogni parte della penisola. Conti gente che ascolta solo buona musica. Fat beat stratosferici, culi che si muovono a tempo, MC a microfoni. L'adrenalina sale riscaldata da ciò. Rock, rock, rock, rock on. Sperduti in un'odissea che non è facile. Paragonati a qualche cosa che è risultato invincibile. Ma intanto i miei piedi si muovono dentro la giungla. Altro che tomba, sull'asfalto nate le mie fondamenta. C'è chi ha provato ma non c'è riuscito a combattere una guerra con un'arma fuori uso. Un punto a tuo favore, sono ormai stufo di che il primo ostacolo ci ferma a dubitare. Fat beat stratosferici, culi che si muovono al tempo, MC a microfoni. L'adrenalina sale riscaldata da ciò. Rock, rock, rock, rock on. Fat beat stratosferici, culi che si muovono a tempo, MC a microfoni. L'adrenalina sale riscaldata da ciò. Rock, rock,